Sono con Massimo Zanotti, direttore artistico della 192esima edizione della Fiera di San Lazzaro. Allora, questa 192esima edizione, come sarà? Che spirito avrà? Ma ha uno spirito fortemente legato ai nostri territori. Gli artisti saranno tutte attrazioni native proprio di Bologna o dintorni, e l'intento era proprio valorizzare il nostro patrimonio artistico e durante tutto l'ambito della fiera farci sentire veramente in famiglia, con un legame, un'empatia molto forte tra il pubblico, che non dimentichiamolo, il pubblico è il primo spettacolo dello spettacolo. E tutti gli artisti, sono veramente anche felice che ci sia questa opportunità con il Comune di San Lazzaro, che è una realtà importante e dove ho trovato veramente una grande accoglienza, grande competenza, grande disponibilità. E quindi, insomma, siamo pronti per vivere insieme questa bella avventura e davvero ho il desiderio che sia un grande evento vissuto con questo clima familiare di grande unione. Ci sarà naturalmente Andrea Mingardi, che è un caposaldo della nostra cultura, e poi altri nomi. Beh, altri nomi, vabbè, intanto sicuramente Andrea, come hai detto tu, è una leggenda della nostra città. Diciamo che nel cartellone che abbiamo allestito ci sono sia figure ben note e con grande carriera come Andrea Mingardi, ci sarà una bellissima serata anche di Fio Zanotti, Super Band, il 2 agosto, veramente da non perdere, e quindi sono queste realtà che sono affermatissime, note, conosciute, con carriere straordinarie, ma c'è una grande attenzione per anche le realtà emergenti della nostra città, perché abbiamo veramente dei talenti importanti. Abbiamo dei talenti importanti da valorizzare anche nella nostra regione, quindi ci sarà, per esempio, Sara Zaccarelli, che è una cantante soul che vi consiglio veramente di venire a sentire. Sarà il 1º agosto nella Corte. Ci saranno i Black Ball Boogie, che sono un gruppo che fa musica appunto boogie anni 40, anni 50, e vi assicuro che stanno veramente in un'ascesa importante, per cui è anche bella l'idea che magari con questa bella occasione di visibilità contribuisca alla loro crescita e che magari la gente che li viene a vedere a San Lazzaro poi tra un po' di tempo li veda in palchi molto prestigiosi e dica: vedi che quello me l'avevano portato. Loro sono anche di San Lazzaro, fra l'altro, il pianista, quindi è una bella cosa. Sono belle anche certe commistioni, come ad esempio il duo flauto-arpa sul repertorio dei Beatles. Anche questo avverrà all'interno della corte, che diciamo è il contesto che consente un po' più queste cose teatrali e crea una grande magia. Non ci sarà solo il palco enorme per i concerti, ma le manifestazioni artistiche saranno dislocate in vari ambiti. Saranno dislocate in vari ambiti perché ci sono delle location molto interessanti e diverse a San Lazzaro. La Corte Comunale che ho già citato è un po' un piccolo teatro all'aperto e può creare quella magia e quella poesia adatta a quegli spettacoli che hanno un'indole più intima e teatrale. Fuori il Parco 2 Agosto è un palco da grande evento, insomma, quindi da ascoltare la musica più anche spinta, più rock. Il Parco della Resistenza è invece una situazione creata più per il pubblico che ama la musica, vogliamo dire più giovane, non lo so se questo sia corretto, però insomma è una musica diciamo un pochino meno popolare e altri generi musicali, e quindi questo è molto bello perché la fiera in questo modo offre un raggio molto ampio di attrazioni e può attrarre fette di pubblico totalmente variegate, insomma, dai più piccoli ai più grandi ai più giovani. Ricordiamo le date che vanno dall'1 al 4 agosto. Ringraziamo il maestro Massimo Zanotti, è stato veramente un piacere parlare con te. Un piacere assolutamente mio e un saluto agli ascoltatori di Radio Fujiko, che io ascolto sempre con piacere.